Palestina lebbi a veder sul mio cammino. Poi di me stesso era l'orrore e non aveva in questo cuore e non sentia che un tal desir, un tal pensier, riveder Carmen, riveder che di vasto sol dimostrarti un guardo sol di gettar su me e nel mio cuore in fosse sparti, o Carmen mia. Dite lo schiavo amore.